este amor. Ao longe a barca louca perde o norte. Amor mio, si non c'è stesso mare tu, non c'è stesso anch'io. L'amore esiste quando noi stiamo vicino a te.